to flood his heart, his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. I pray for your grace and your protection over him. I pray for your grace and protection over our troops and all of our men and women serving in our armed forces. And Father, we just pray you'll continue to give our president the strength that he needs to lead our great nation as we come back to one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. We pray your heavenly blessing upon him in Jesus' name. Amen. Fondo rosso, questa era la voce del presidente degli Stati Uniti d'America. Questa era la benedizione del presidente degli Stati Uniti d'America. Una foto, non so se avete visto, nello studio ovale, con sembra l'ultima cena. Sembra il quadro. Una specie di rito sciamanico, una benedizione dall'alto per insomma aiutare a sterminare. Tutte congregazioni religiose, gente che si toccava, si abbracciava un po' verso questo, come nell'ultima cena, e stavano inneggiando al bombardamento. Una scena da oscurantismo religioso. Idiocracy. No, Idiocracy, ricordo un po' questo film. Io pensavo, no? All'Inquisizione, forse era più seria, sì. L'Inquisizione è più Idiocracy, sì, come dici. Questo è per capire che nulla è cambiato, qualcosa peggiora, i CSI lo spiegano. Lo sottolineano, sì, ragazzi, a che livelli siamo capitati? Generatore, mi pare amare. posición del Gobierno de España ante esta coyuntura es clara y consistente. Es la misma que hemos mantenido en Ucrania o también en Gaza. En primer lugar, no a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil. En segundo lugar, no a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas. Y finalmente, no a repetir los errores del pasado. En definitiva, la posición del Gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra. Allora, giusto per fare chiarezza nella situazione, visto a che punto siamo giunti, questi finti moralisti, che non sono neanche moralisti, perché sono finti anche in quello, stanno correndo a riarmare tutto. Adesso si diceva 10 miliardi stanziati per il riarmo, ma soprattutto il 10% di percentuale che si è alzata la spesa di tutto quanto, dell'investimento delle armi. E mentre questi spingono a fare la guerra, nel frattempo tirano fuori una retorica, una morale per cui ci sono i buoni e i cattivi. Tra i buoni, che sono paesi alleati dell'Italia, ma poi è ridicolo parlare di alleati perché noi eravamo il secondo fornitore dell'Iran a livello di consumo e di commercio. Gli alleati, quelli buoni, stavo dicendo, la Siria, è stato riconosciuto il governo della Siria, anche se non esiste, è una banda di tagliagole dell'ISIS, e la Meloni è andata a complimentarsi. E adesso no, volevo giusto leggervi due secondi e poi mi levo. L'Arabia Saudita, che è un altro paesino, no? Perché loro dicono i cattivi di qui, i buoni di là. Giovanissimi giornalisti colpevoli di reati minori, Riyadh batte ancora il record delle esecuzioni. E qui ci sono tipo le foto di quattro persone in senso orario, praticamente un pescatore egiziano che era stato arrestato e era stato costretto a contrabbandare droga, dice lui, e l'hanno ghigliottinato. Un ragazzo nel 2014 di 28 anni era reo di aver partecipato alle proteste di piazza, anche lui è stato condannato a morte e ucciso con il numero 300. Un altro giovane di 23 anni era stato arrestato solo quando ne aveva 15 per essere sceso in piazza come terrorista ed è stato, senza pensarci due volte, ucciso anche lui. Vi risparmio un quarto, però vi ho fatto capire gli alleati buoni, quelli che aiutano a fare guerre. Esatto. E noi, vabbè, adesso dopo avremo un attimino, perché nel frattempo, tra quando abbiamo preparato la puntata un attimino e ci sono, insomma, dall'ANSA, dalle ultime ore, comunque arrivano continuamente degli aggiornamenti, che sia che sono state colpite nello stretto di Hormuz delle navi dall'Iran, quindi sono navi, non so se sono americano o inglese, non lo so, e da il presidente, da Trump, che insomma ha minacciato ancora una volta la Spagna. Ecco, quella che avete sentito prima era la voce del primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, che diceva chiaramente che la Spagna non partecipava, non era complice. La mosca bianca. Una voce fuori dal coro che noi abbiamo ascoltato lietamente. Non voglio fare retorica, una voce socialista, usiamo questa parola che in Italia è stata cancellata dal vocabolario, il socialismo è una di quelle cose che non bisogna nominare, se non associata a ladri e Bettino Craxi. Sentivo in radio l'altro giorno quello che si aspettava che dicessero, ovvero la sinistra riparta da Sanchez. Vabbè, Sanchez socialista, non scherziamo. Esatto, qualcuno che insomma non sta dietro, no? Dice quello che insomma bisogna dire in questi casi, no? Esatto. poi su quello che è successo, perché qualche notizia positiva almeno sul bombardamento dei server di Amazon, cioè... dica e notizia di una settimana fa, in realtà è passata un po' sotto traccia, però praticamente sono stati colpiti dei server in Bahrain, negli Emirati Arabi Uniti. Prima volta che un conflitto mondiale danneggia grandi data center americani, vabbè che i data center sono cose abbastanza recenti, quindi sono dei grandi computeroni di traffico che tengono in memoria di traffico dati, in questa grande multimedialità che c'ha Amazon con acquisti e vendite, sono saltati, quindi... insomma, poverini, quindi povero Amazon, cosa si sono preoccupati, come sono saltati un terzo, un quinto dei voli da e per i paesi arabi. Vi dicevamo che gli davano 28.000 euro dallo Sri Lanka i voli la settimana scorsa. Questi sono gli Inna Cantina, eh. Non dare via l'anima come se fosse di plastica, ma come fai a girarti di là? Sei vivo, non sei una macchina. Non si può più stare fermi a guardare sto mondo che perde la sua umanità. Non lasciare che l'odio diventi la normalità. E sai che ci parte da qui, da un microfono, da un beat, si diffonde nelle street perché nasce dallo stesso sentimento. Non mi chiedere quanto do, ognuno fa quello che può per dare vita a un vero cambiamento. Mi vengono i brividi perché siamo simili, oggi pure il domani mi sembra bello. Bandiere nei vicoli, i grandi coi piccoli, tutti in un unico senso. Quando pensavo di aver perso fiducia, mi sono affacciato, ho visto tutti per strada. Ho visto gente che si prendeva cura l'uno dell'altro come fosse una squadra. Guarda che bello quando ci si aiuta, è ancora meglio quando ci si ama. Siamo l'esercito che si rifiuta di prendere il fucile se lo Stato ci chiama. Non dare via l'anima come se fosse di plastica, ma come fai a girarti di là? Sei vivo, non sei una macchina. Non si può più stare fermi a guardare sto mondo che perde la sua umanità. Non lasciare che l'odio diventi la normalità. Mi piacerebbe avere un'isola libera, però sarebbe l'isola che non c'è. Se fosse grande come l'Africa, sarebbe piccola per tutti quelli che vorrei insieme a me. Resisteremo alla marea, oh là, un'onda non ci porta via, o se va, galleggeremo sull'idea, oh là, che questo mondo è casa tua, ma pure casa mia. E lo sai che a casa mia tutte le porte sono aperte, per tutte le volte che qualcuno si perde. Per tutta la notte ho guardato le stelle, che sono le stesse sopra tutte le teste. Un'anima sola, un cuore che batte per 8 miliardi di persone diverse. Uniamo le forze, si può realizzare qualcosa di grande con piccole scelte. Non dare via l'anima come se fosse di plastica, ma come fai a girarti di là? Sei vivo, non sei una macchina. Non si può più stare fermi a guardare sto mondo che perde la sua umanità. Non lasciare che l'odio diventi la normalità. Non dare via l'anima come se fosse di plastica, ma come fai a girarti di là? Sei vivo, non sei una macchina. Non si può più stare fermi a guardare sto mondo che perde la sua umanità. Non lasciare che l'odio diventi la normalità. No, ma per dirtene una sul degrado, no? Per dire, ogni volta che vado alla macchinetta a prendere le sigarette trovo che sono 20-30 centesimi in più di aumento. Ma è un degrado, cazzo! Io voglio fumare, voglio fumare! Welcome to Hezbollah phone line. For membership information, press 1. For negotiation updates, press 2. For bonus mail information, press 3. For terrace supplies, press 4. We have currently suspended our terrace supply service as we are engaged in negotiations with Israel. We will resume service as soon as negotiations break down. Thank you. Great. Viva la pace che il petrolio è finito e viva il sole che non si è scaricato. Viva il baratto che la banca ha fallito e viva il ladro che il governo ha piovuto. E viva il vino che il dottore ha malato e viva la musica che la scuola è finita. E viva il caos perché l'ordine ha fallito. Ma quanto è bella la tecnologia che mi fa parlare con tutto il mondo, ma ancora non mi aiuta a parlare con te, perché sei tu la mia rivolta. Spano Circo Este, la mia rivolta. E, sì, allora la canzone parla. Sono live tra l'altro settimana prossima, mi sa che sono all'Arcibellezza. E, simpaticamente è collegata, cioè se Trump diciamo rispetta quello che ha detto, cosa che notoriamente fa. Tra poco dovrebbe essere finita. E nel frattempo, in questo caos, diciamo, mondiale, il governo italiano c'ha un referendum di mezzo che zitto zitto sta passando, non dico sotto traccia, però Ovviamente ci sono notizie più importanti dal fronte estero, quindi lo fanno un po' passare un po' sotto, anche se gli è venuta un po', diciamo, un po' di strizza, quindi si sono un po' attivate il fronte del sì, cosa tra l'altro un po' incostituzionale, che il presidente del consiglio esprima un parere così apertamente, no? Soprattutto che usi i soldi del Quirinale per fare pubblicità per il referendum, questo è anticostituzionale, mettiamola così. Dovrebbe essere il partito a rappresentare, a pagare, non il Quirinale, cioè noi cittadini, per il referendum. Ragazzi, non facciamo scherzi, andiamo tutti a votare. Se questi cambiano la Costituzione è la fine, abbiamo già visto l'inizio della fine, come sta andando. Sì, non stiamo neanche a entrare nel dettaglio, perché poi alla fine i quesiti, tra l'altro, sono cioè da leggere, sono abbastanza complessi, nel senso che cioè o uno studia esattamente, però il concetto globale è, che deve rimanere in testa, è che non si deve cambiare le cose. La Costituzione più bella del mondo, e basterebbe applicarla come è stata fatta all'epoca e vivremo nel paradiso terrestre. Tra l'altro, notizia dell'ultimo, ultime ore, forse ieri, e la Presidente del Consiglio sarà al Teatro Franco Parenti per appoggiare questo sì. Al di là di sì, ha detto sì alla guerra contro Sanchez, ma andiamo un po' per volta, non asfissiamo le orecchie così di punto in bianco. C'era una notizia... Ah sì, no, certo. Vabbè, la notizia è per un po' la rubrica del cerco lavoro. Vai. Ed è sempre collegata col Presidente del Consiglio, perché oltre a diciamo presentarsi al Franco Parenti tra qualche giorno, tra l'altro avallata dalla direttrice del Franco Parenti. No dai, arriva al cerca lavoro, vai va bene, cerca va bene, lavoro. Allora, il titolo è eloquente, perché ci venite a lavare il parquet? Praticamente c'è una grande offerta di lavoro al Montecitorio, perché la Camera dei Deputati, chiedo, cioè io diffondo per chi fosse interessato, assume 24 nuove figure, inclusi specialisti nella lucidatura di parquet e lampadari. Lucidatura, bustarelle. Cosa serve? Ve lo dico velocemente. Sono 24 persone, c'è il lucidatore, c'è l'addetto alla ristorazione, facchinaggio, guardaroba. Bustarella finale. Insomma, mentre già delle 166 persone, serve altro personale. Quindi bisogna lucidare pavimenti, parquet, marmo e cotto, quindi tecniche adatte, mi raccomando. E una dei più grandi, comunque, sicuramente è la spolveratura meticolosa di parti alte come corpi illuminanti. È tutto chiaro? Tutto chiaro, ragazzi. Questo governo di merda della Meloni non mi fa neanche fumarmi le cicche. Porque entendemos que los gobiernos estamos aquí para mejorar la vida de la gente, para aportar soluciones a los problemas, no para empeorar la vida de la gente. Y es absolutamente inaceptable que aquellos dirigentes que son incapaces de cumplir con ese cometido usen el humo de la guerra para ocultar su fracaso y llenar de paso los bolsillos de unos pocos, los de siempre. Los únicos que ganan cuando el mundo deja de construir hospitales para construir misiles. Libera. Voy a ser libera. Di non portare o portare un velo, truccarmi tantissimo, non depilarmi per mesi, per anni. Libera, voglio essere libera. Di uscire la sera, tornare da sola, senza la paura, persino del tipo della spazzatura. Di fare un figlio anche a 40 anni, di divorziare e poi risposarmi. Amare un uomo con 10 anni in meno che mi vuole bene. Come mi pare, non mi sa. simulacro di nuova vita. Delle mie mani farò cantieri o fragilissimi tulipani. Della mia vita farò una bandiera che brillerà nella notte scura. Della mia vita farò una bandiera che brillerà nella notte nera. Della mia fica farò una bandiera che brillerà nella notte nera. Della mia fica farò una bandiera che brillerà nella notte nera. Della mia fica farò una bandiera che brillerà nella notte nera. Della mia fica farò una bandiera che brillerà nella notte nera. Della mia fica farò una bandiera che brillerà nella notte nera. Intanto l'Italia prosegue nel percorso di rafforzamento della sua difesa anche grazie all'approvazione dei finanziamenti agevolati previsti dal programma SAFE, Security Action for Europe, con l'assegnazione di 14,9 miliardi di euro a progetti che abbiamo attentamente selezionato per massimizzare lo sviluppo dell'industria della difesa nazionale e le ricadute occupazionali, privilegiando lo sviluppo di strumenti dual use, cioè utilizzabili tanto a scopo militare quanto a scopo civile. In ultimo, anche in questo Consiglio europeo torneremo a parlare di immigrazione. Oggi come mai c'è ampio consenso tra gli Stati membri sulla linea politica da seguire in ambito migratorio, tanto a livello di legislazione interna che di dimensione esterna. Sono particolarmente fiera del fatto che stia prendendo corpo un pacchetto di norme importantissime che l'Italia ha fortemente voluto e sostenuto, lavorando per costruire su di esse il più ampio consenso possibile. La revisione del concetto di paese terzo sicuro, l'adozione di una lista europea di paesi di origine sicuri con la possibilità di designare paesi di origine sicuri con eccezioni territoriali e personali e a breve la revisione del regolamento rimpatri con la previsione esplicita degli hub per i rimpatri in territorio extra UE. E se non smettono di rompere i coglioni sulle sigarette e che mettono i 5 euro di soprattassa, io veramente mi sono rotto le palle. Vado in piazza e divento Black Bloc. Altro che Propal, PayPal, mi sono rotto le palle. Benvenuti al telefono amico di Hezbollah. Per iscrizione all'organizzazione, premere 1. Per aggiornamento negoziati, premere 2. Per informazione media gratis, premere 3. Per forniture terroristiche, premere 4. Le forniture terroristiche sono momentaneamente sospese a causa dei negoziati in corso con Israele. Riprenderemo questo servizio non appena i negoziati falliranno. Grazie. Perfetto. Andiamo, solo invitiamo. Allora, ragazzi, abbiamo rispolverato per voi un rap, uno stupro dei padiglioni auricolari, uno stupro della orecchia, fatto da una posse, una band, nel 1993. Quanto mai attuale? Un regalo per tutti voi. Dopo lo dico, questo brutto audio di... dopo questo tremendo audio di questi loschi figuri che vogliono portarci alla guerra e investire nelle armi piuttosto che farci vivere bene. A proposito di chi diceva Aspetta che non mi sento. A proposito di chi diceva che non siamo in economia di guerra, è chiesto un buffone cialtrone. No, perché sentivo che sai, l'economia di guerra è più una cosa che, cioè, nel senso, adesso ci sono queste grandi corporazioni che guadagnano e quindi l'economia di guerra dovrebbe essere quella che riguarda prettamente lo Stato e gli investimenti dello Stato. Eccoli qua, i 14 cucuzzoni che vengono dati. Allora, l'industria delle armi dall'inizio dell'anno ha fatturato il 10% in più a oggi, il 10% in due mesi, l'industria mondiale delle armi ha fatturato il 10% in più su tutta la faccia della terra. E tutti gli investitori puntano su Leonardo perché continua a crescere, quindi... Che non è il pittore, è un'industria di armi, ragazzi. Ha scelto il nome giusto, perché... Questi sono gli... Autorizzazione ministeriale non concessa. Muto. M-M-K. Muto, resti lì a guardare. Sei una vittima innocente di uno stato criminale. Non ti porta, continui a marciare sul rito scandito da un inetto superiore. Un sergente si approfitta come niente della gente e dei limiti culturali della mente. La mente della gente è strapotente. Per loro la vita non è niente. La storia di una vita si riassume così: in una squallida teta per un giorno che verrà. In un mondo basato sul denaro, il giorno che verrà sembra ancora più lontano che la gente. Innocente come noi. E intanto c'è chi sale, sale, sale, sale in alto fino al Quirinale. Il sergente è stato fatto caporale per le numerose azioni umanitarie. O meglio, per il conto alla banca nazionale. Sì, ma allora cosa fare? Denunciare il governo criminale. Mobilitare le masse per un'azione compatta. Per mettere fine a questa democrazia di carta. Cosa fare? Sei muto, resti lì a guardare. Sei muto, resti lì a guardare. Sei muto, resti lì a guardare. Denunciare il governo criminale. Sì, mobilitazione, la parola d'ordine. Denunciare il padrone. Il disonesto. Attenti a miei versi, la politica non conta. Io non faccio gli interessi di nessuno. In particolare. Il futuro è nostro e noi dobbiamo creare un mondo migliore dove vivere insieme. Un mondo dove un bimbo possa ancora giocare in un prato. Cosa fare? Sei muto, resti lì a guardare. Sei muto, resti lì a guardare. Sei muto, resti lì a guardare. Denunciare il governo criminale. But we had one more important sound we wanted you to hear. E questo è lo stile. Lo stile della posse, lo stile che martella come un alfabeto morse, come un treno. Un treno notturno che parte per il mondo a mezzanotte in punto. Essere una donna non vuol dire soltanto portare una minigun. Così cantava la Tatangelo, che era lei. Muki, essere donne dopo i 40 anni è tosta, perché a parte la concorrenza spietata, vero? E poi qui bisogna ricorrere a ogni trucco possibile e necessario, dal farsi le puntoline di Botox, a tirarsi un po' su, a tirarsi un po' giù, a sfidare la forza di gravità. C'è anche chi ricorre a interventi chirurgici per, pensa un po', per dimagrire. Pensa te in che mondo siamo arrivati, cioè dopo i 40 anni è così difficile dimagrire che addirittura ci sono persone che si sottopongono a interventi chirurgici. Ma ti rendi conto? Tutto perché? Per avere un'immagine socialmente più accettabile. Chi si rifà il seno, chi si rifà le tette, che c'è anche chi si rifà lo stomaco. Quindi è un mondo spietato per le donne sopra i 40. Corri in edicola a comprare il primo numero di Poveraccio. Poveraccio è la rivista di chi non ha un soldo. Nel primo numero un reportage su luoghi di vacanza più economici: Torvaianica, Fiumicino, Monte Porzio Catone. La mappa di tutti i discount della vostra città. Come far bella figura con un regalo riciclato. Poveraccio, la rivista di chi se la passa male. Nel primo numero, il regalo, una finta tessera stampa per imbucarvi alle anteprime cinematografiche e teatrali. Poveraccio, io non ho una lira e tu? Poveraccio, ti aspetta in edicola. Senti, ma te hai anche altra roba? Oppio. Cash. No, no, no. Tappeti, cose di questo genere. No tappeto, no tappeto. Ma vedete, se non tenete tappeti, cash, oppio, che ce frega? Questo qua non sa niente. Ma cosa sta succedendo? Cosa succedere? Dove? Come dove? In Italia, in Europa? Non so. Come non so? Voglio dire, Mussolini, Hitler, la Germania. Non so. Che non so? Non so. Ma da dove vieni tu? Da dove venire? Cash? Antalya? Che dire? No guerra. Acquisiamogli la barca. Perché? Come perché? Per andare a Rodi, per tornare in Italia. Per andare dove succede qualche cosa, no? Ma tu ci tieni davvero tanto? Come ci tieni tanto? Ma signor tenente, ma siamo qua, in un posto sperduto di Dio. Non sappiamo neanche da quanto tempo. Non sappiamo cosa succede in giro. Non avete un minimo di curiosità? Io dico, diavolo porco, torniamo in prima linea. Torniamo dove succede qualcosa, vi ripeto. Oggi abbiamo il piacere di presentarvi un'azienda italiana leader nel campo dei montascale da più di 30 anni per migliorare la libertà di movimento di ognuno di noi. questo sono i Nano War of Steel con Giorgio Mastrota. Nel frattempo si sono a Cortina avviate le indagini verso due indagati, due andrusi che avevano già taglieggiato mesi fa la città di Cortina, e magicamente adesso c'è stata un'inchiesta riguardo. Una cosa nota, ma sì, così sì, una ciliegina. E tra le ciliegine, diciamo, di Milano appunto, e del mondiale di, cioè mondiale insomma, delle Olimpiadi, ho ritrovato quello che ci dicevamo qualche puntata fa sul famoso villaggio olimpico, no? Che sulla destinazione d'uso, no? Che era stato imposto al Comitato Olimpico per tutti i soldi investiti insomma anni fa, di dare un'altra destinazione d'uso a tutte queste strutture, in modo che insomma da non creare delle strutture che si usano una volta e si lasciano andare. E detto questo, hanno eretto queste cattedrali nel deserto di scala romana che sono, insomma, che sono state usate dagli atleti e che diventeranno studentato. Allora, non fosse peraltro che di mezzo c'è la solita Coima. La Coima, che ricordiamo è una delle ditte appaltatrici di Milano storiche dell''Ndrangheta, un po' come la Sogemi per l'alimentazione, ci sarebbe un lungo discorso anche su quello, e la Coima gestisce praticamente il movimento terra metropolitano all'incirca, una cosa... Cioè più che altro che... la terra e poi il mattone. Sì, sì, in quel senso, sì, cioè sì. Da lì in poi l'edificazione sugli appalti e le costruzioni in città. Allora, la notizia in realtà, che la notizia è anche abbastanza nota. Scusate. Vai. È che una parte di questi appartamenti per gli studenti sono già stati prenotati, perché comunque sono già stati prenotati dai figli di medici, dentisti, avvocati e commercianti. È già stata spartita la torta, ragazzi, siete arrivati in ritardo, se vi svegliavate adesso è tardi. Sono 372 letti che quattro casse previdenziali hanno già messo a disposizione per i propri iscritti, quindi si tratta di Inarcassa, Empaci, Empam e Cassa Forense. Queste sono le varie bande di taglieggiatori che si sono divisi il bene pubblico a Milano. Non ha importanza il finto colore di una giunta o quell'altra. Siamo in queste mani qui, al governo intendo, cioè al governo della città, del territorio, dello Stato. Stato, aboliamo anche questa parola poi che suona malissimo. Non è molto inclusiva in questo momento. No, esatto, ma io penso in assoluto, però... E vabbè, queste sono vecchie storie di Olimpiadi che sono ancora in atto e quello che rimane è che i posti saranno dati almeno alla cifra, non certo quella diciamo bassa, convenzionata, che il convenzionato si aggira comunque sulle 600-700 euro al metro quadro. E ma tanto vanno ai figli degli amici, ragazzi. E i figli degli amici più che altro rubano i posti, tutto qua. E questo è proprio un disco mostro, dico bene? Assolutamente. Qui siamo in ritardo di un paio di mesi perché il pezzo si chiama Gennaio. Ma col nostro delay vi raggiungiamo subito. Disco mostro. Mostro Gennaio li abbiamo messi primo perché ci piacciono morire, secondo perché sono in concerto venerdì al Q Hub. A dove? È in via Mecenate, costa una deca, adesso non sono mai andato quindi non so che posto sia. So andremo, che lo sapremo, ve lo diremo. Se è dove c'è la Rai, dove c'erano gli studi Rai, sì, più o meno, da quelle parti lì, capannoni, esatto. Da quelle parti, sì. Altre cose che ci sono in giro. Allora, domenica 15 ci sono i Circus Punk che non sono gli headliner, quindi fanno da spalla ai Room Jack. Però vabbè, ve li diciamo che magari se riusciamo li mettiamo anche dopo. E c'è anche Aurora Borealo ai magazzini domani. Questi sono per quanti quello soldi che ho trovato. Aurora Borealo, non lo so. Di solito Aurora Borealo suona per un 15-20. Cioè, nel senso, magazzini generali, cioè, di solito qua la politica dei prezzi adesso come adesso gli ARCI stanno sui 15, se esci dall'ARCI si alza di un deca. È tutto caro. È tutto caro. Troppo caro. Economia di guerra. Poi stasera, in realtà alle 19.30, c'era al Cinema Beltrade un docufilm di Trop Shoud, che è un gruppo di signore anziane delle Alpi svizzere che denunciano il governo perché non protegge la salute dei cittadini dall'inquinamento. Questa è una info delle giardiniere che proiettavano questo film stasera a Beltrade per far vedere che è un po' ovunque... appunto discaricano il vetro e fanno cose di questo genere, ma forse quello non lo so. Adesso sentiamo la pancia, quella dolorante del paese. E poi aumentano le sigarette, le cicche, e ci diminuiscono i soldi sulla sanità. È veramente un degrado morale. Sí. El mundo, Europa y España ya han estado aquí antes. Hace 23 años, otra administración estadounidense nos arrastró a una guerra en Oriente Medio. Una guerra que, en teoría, se dijo entonces, se hacía para eliminar las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, llevar la democracia y garantizar la seguridad global. Pero que, en realidad, visto en perspectiva, produjo el efecto contrario, desencadenó la mayor oleada de inseguridad que ha sufrido nuestro continente desde la caída del Muro de Berlín. La guerra de Irak generó un aumento drástico del terrorismo yihadista, una grave crisis migratoria en el Mediterráneo Oriental y un incremento generalizado de los precios de la energía y, por tanto, también de la cesta de la compra, del coste de la vida. Ese fue el regalo del trío de las Azores a los europeos de entonces, un mundo más inseguro y una vida peor. Uso testardo, c'ho la capoccia dura e per natura non abbasso mai lo sguardo. È un'esigenza perché c'ho una pazienza da leopardo. E so testardo e non mi ferma niente, vado sempre avanti fino al mio traguardo, indifferente e non mi importa niente. Niente se ritardo. Io so di legno e sembro muto e sordo, ma le tue parole sta tranquillo che me le ricordo e qualche volta me le segno. Io so di gocce, quello che dico faccio. Io so uno che comunque vada, le promesse le mantiene, che poi nemmeno mi conviene molto, perché so un muro, eppure se t'ascolto fondamentalmente so sicuro che la tua vita è appesa a un filo e io c'ho le forbici. Però ancora un po' mi piaci, la colpa è dei tuoi baci che mi hanno preso l'anima degli mortacci tua. Io so di chirico, dico in un senso simbolico, c'ho un controllo diabolico, quasi artistico, del mio stato psicofisico. E se hai capito, mo, traducilo. E so tenace, perché alla gente piace, ma è evidente che con un coltello mi vuoi far cambiare opinione. Oh, so tenace, ma mica so coglione. Io so de marmo, ma ma tu m'hai sbriciolato, perché so testarto fino al punto che sto sempre innamorato. Pure se tu m'hai già scordato, infatti la non ma non formato. Però se ancora un po' mi piaci, la colpa è dei tuoi baci che mi hanno preso l'anima per i mortacci tua. Pronti, scusate, eravamo finiti e ci eravamo persi. C'era fuori onda, fuori c'erano onda, dei satelliti. C'era fuori onda molto. No, all'insegna che l'ultima volta, togliendo quest'eco che non riesco a capire, no? Boh. Hai. No, volevo parlarvi della violenza, due secondi, proprio visto che avevamo detto l'ultima volta che magari si poteva anche trasmettere qualcosa e non fare intrattenimento, volevo parlare dell'uso della violenza e boh, non trovo tutti i fogli con tutte cose, però... Abbiamo un sacco di fogli qua. Troppi fogli, veramente. Fogli di qua, fogli di là. Di qua e di là. Allora, no, volevo aprire un dibattito sull'uso della violenza. La violenza monodirezionale che sta prendendo piede sul pianeta. E come violenza è saltato. Ecco, e come violenza intendo a 360 gradi. Può essere psicologica, alimentare, verbale, fisica, da arma bianca, arma nera, fatta da una macchina. La violenza. Al giorno d'oggi viene espressa da alcuni stati, alcuni paesi, alcuni gruppi di potere che dicono che sono buoni nell'esercitare la violenza, sono buoni e loro possono esercitarla perché sono autorizzati, e una parte del mondo che non ha più diritto a difendersi. Vi ho fatto una sintesi brutta al posto mai giusto per... No. Sì, il concetto è che le parole sembra che cambino a seconda di chi li pronuncia, cioè i concetti vengono ribaltati e non, cioè quello che per noi almeno qua in studio sembra ovvio, per gran parte non lo sembra, ma più che altro c'è, secondo me c'è anche una buona parte che è che lo capisce, questa situazione un po' ai limite della comprensione del buon giudizio, cioè, quindi però non si riesce a capire perché non si abbia il coraggio di andare, insomma, nella direzione giusta. Allora, un esempio. Ti è il cavo. Allora, un esempio. Nel 1959, Fidel Castro a Cuba regala il suo fucile a uno studente belga che viveva in Quebec. E questa era una cosa normale, era un dato acquisito, non è che si è scandalizzato nessuno perché gli ha regalato il suo fucile. Certo. La violenza non era attribuibile a uno Stato o a una cosa, come dire, a una sovrastruttura già fatta, ma era distribuita, era un uso comune, cioè anche un'ideologia poteva essere portatrice di violenza, tra virgolette. Sì. Però poi è andata a finire sul pianeta che le ideologie vengono combattute, o comunque un pensiero, e chi ha il diritto di esercitare la violenza è una figura autorizzata per farlo, l'unica che può farlo, tutto il resto viene bypassato. Questo messaggio, sì, che è giusto che lui usi questa violenza. Lui, sì, lo Stato, sì, la persona. Se vogliamo entrare nel, faccio un esempio. Se vogliamo entrare nel merito, entriamo negli esempi. Dai. Entriamo negli esempi. Allora, la striscia di Gaza negli ultimi 30 anni è stata collegata al mondo esterno tra i valichi e poi coi tunnel. I tunnel erano controllati da Hamas da una parte e dall'esercito israeliano dagli altri, che erano pappe ciccia e hanno alimentato 2-3 milioni di persone, sfamato, gestito per 30 anni. Quindi diciamo che loro, sì, sono sempre la stessa faccia o le due facce della stessa medaglia, sì, cioè comunque sono gli amici che si fanno la guerra, ma loro sono gli amici, loro sponsorizzano la guerra. Se invece c'è un pensiero dietro all'essere, alla guerra, quello diventa invece un nemico verso cui si rivoltano contro. Faccio un altro esempio: quando al seguito di tutti questi disfacimenti nasce il terrorismo islamico, chi è che vanno a colpire via terra per la prima volta in Europa? Una redazione di anarchici, Charlie Hebdo, di tutte le persone a cui poteva sparare nell'Occidente cattivo, capitalista, cristiano, speculatore, vanno a sparare a una banda di anarchici che fa fumetti. Sì, il dissenso. L'altro giorno hanno tirato giù la statua di Arafat dentro la Palestina a sfregio, l'hanno tirata giù, cioè gli dà fastidio che ci sia il pensiero socialista dietro, sì, in Italia è diventata una qualcosa. Parolaccia. Non lo so, qualsiasi paese che aveva una la Jugoslavia, ve la ricordate, è scomparsa, cioè quando si identifica un grande nemico operazione a questo sistema, scompare. Gli altri possono essere cattivi e buoni, tanto si sparano, fanno i soldi, tutti amici come prima, la gente normale muore e noi muto, prendi e noi, tutti questo tutti è muto tutti e dietro, devi reagire a sto governo criminale. Tutti dietro al carro armato. Meditiamo gente, meditiamo. Meditiamo. Sì, non dico che una minima. Prego. Viva e viva questo Sanremo che ha reso dignità alla famiglia italiana, ai valori della famiglia, dell'amore che ci unisce davanti a Dio per sempre, il tutto in napoletano. Ma vaffanculo, va. Questo è per staccare un attimo, eh? Non era, era un taglio voluto. E questo invece è un... Non l'avremmo mai mandate, però ci tocca. Una volta ero Laura, ho preso la laurea, la vita allora mi sembrava candida. Mi fidavo di tutte le persone, di chi mi sorrideva sempre al bancone. Fiducia piena, chi diceva di amarmi, ma non lo dimostrava. E mi sentivo sola mentre camminavo in mezzo alla gente. Non mi ricordo più. Sentivo sola mentre camminavo in mezzo alla gente. Non mi ricordo più niente. Solamente del dolore sulle mie gambe. Tutto confuso e distante. E mio padre diceva: dove esci la sera che la strada è bella. per fare la chiusa del discorso di prima, ci rendiamo conto che questi stanno investendo miliardi in armi, stanno costruendo, continuando a costruire armi da anni a questa parte, a venderle, a distribuirle e a ammazzare persone, cose, animali, pianeta, stanno distruggendo ininterrottamente. E sono le stesse persone che per una manifestazione, faccia caso come quella di Torino, sono state a invocare: oddio, la violenza ci sta, oddio, che cosa tremenda, bisogna fare delle leggi speciali perché la violenza. Queste stesse persone che da anni, che oggi hanno votato per distruggere, costruire e basare un'economia su un mercato di guerra, dell'uccisione e della distruzione, sono le stesse che alla faccia di tolla di riuscire a dire per una manifestazione che quella è violenza. Ragazzi, siamo a sti livelli, il referendum, la costituente, occhio. E comunque ciao da Rimini, sono sempre Stefano di Rimini e vi dico basta con questo degrado morale, con questa caccia alle streghe su chi fuma le bionde. E voglio dire da Rimini, profumo di Rimini, ma non profumo nel senso di profumo, ma nel senso di per il fumo. E ciao a tutti. Benvenuto al servizio clienti di Hezbollah. Gli operatori sono occupati. La sua chiamata sarà servita entro... 4-20 minuti. Bel servizio clienti. Come lo troviamo, Phantom? Beh, probabilmente sarà nel suo New Kentucky Restaurant. Ok, ma quale? Sono tipo 200. Probabilmente alla man... È lì che si rimedia la meglio, Topolach. Qual è il prefisso German? 011 Arba Hamse Talata. Arba Hamse Talata. Hamse Hamse Sefer Sefer. Hamse Hamse. Hamse Hamse Sefer Sefer. Sefer Sefer. Se. Saba Saba. Saba Saba. Sitte Talata Arba Sitte. Sitte Talata Arba Sitte. Wahad. Arba. صفر سبع كاسو ثلاثة أربعة خمسة prima di soccombere è lecito, cioè, ricordiamocelo. Anche perché cioè, allora va bene se ci diventiamo, non va bene se loro si difendono, però se attacchi fai bene, se attacchi, cioè, non si capisce, la famosa dei due pesi, due misure, ma qui ci sono 16 pesi e 44 misure. Qui non, cioè, incomincia, come diceva la Milena Gabbanelli, non è che dobbiamo per forza metterci a 90 gli Stati Uniti. Ma mettersi a 90 a nessuno, neanche a questo regime in cui viviamo, ragazzi, cioè, anche perché è una tendenza mondiale, non è che è solo l'Italia, voglio dire, il regime è così, no, la no, Spagna certo, è la voce certo, fuori dal coro. Però nel senso la Spagna in questo caso... Cioè, che comunque nella NATO cioè, ha espresso un suo pensiero, no? Cioè, se si levasse dal coro qualche altra voce, forse. Visto che comunque vogliono toglierci anche i diritti di cittadini qua in Italia, difendiamoli i nostri diritti finché siamo vivi. Chiediamo scusa ai mortuari Drape perché gli stiamo bruciando il prezzo. No? Il prezzo gli bruciamo, il prezzo del greggio, cazzo! Questo è il fuori quota. We'll be right back. picchia, che vita da persona acculturata che sei, ma tanto rimani un ignorante nell'anima. Por tanto, debemos aprender de la historia y no podemos jugar a la ruleta rusa con el destino de millones de personas. Las potencias involucradas en este conflicto deben cesar inmediatamente las hostilidades y apostar por el diálogo y la diplomacia. Y los demás debemos actuar con coherencia, defendiendo ahora los mismos valores que defendemos cuando hablamos de Ucrania, de Gaza, de Venezuela o de Groenlandia. Porque la pregunta no es si estamos o no a favor de los ayatolás. Nadie lo está. Desde luego no lo está el pueblo español y por supuesto tampoco el gobierno de España. La pregunta, en cambio, es si estamos o no del lado de la legalidad internacional y, por tanto, de la paz. Lo sapete che Moderni è l'anagramma di Merdoni? Con il logopedista di Jovanotti le regole non esistono, esistono solo le eccezioni. Ti ricordo che sia i piatti che i cessi li produce Richard Ginori. Non fare mai l'errore di mettere al mondo dei genitori. Guarda che io ho frequentato la Libera Università di Santi Licheri e ai carabinieri, se togli la C una I, diventa Arabineri. Ho sbagliato tutto giusto, ma solo per te, soltanto per te, trovo il brutto dappertutto. Ho visto De André balzato al privé, ho sbagliato tutto giusto. Pensali Marò, repetto Black Block, vedo il brutto dappertutto. E ognuno fa schifo, fa schifo, fa schifo, come può. Il concetto di tromba amici mi toglie la serenità. Nel bodybuilding e nel sesso, se il culo si vuole, il culo si dà. Io con questa faccia ci lavoro, il mattino ho in bocca un fazzoletto di cloro. Al contrario del califfo, escludo il ritorno, tu vieni dalla strada e io tra poco ci torno. Ho sbagliato tutto giusto, ma solo per te, soltanto per te, trovo il brutto dappertutto. Ho visto De André balzato al privé, ho sbagliato tutto giusto. Pensali Marò, repetto Black Block, vedo brutto dappertutto. E ognuno fa schifo, fa schifo, fa schifo, come può. Quanto devo faticare per invecchiare così male? Ho già le rughe, ancora i brufoli e i testicoli girevoli. Ho sbagliato tutto giusto, ma solo per te, soltanto per te, trovo il brutto dappertutto. Ho visto De André balzato al privé, ho sbagliato tutto giusto. Pensali Marò, repetto Black Block, vedo il brutto dappertutto. E ognuno fa schifo, fa schifo, fa schifo, come può. E ognuno fa schifo, fa schifo, fa schifo, come può. Algunos nos van a acusar de ser ingenuos por hacerlo, pero lo ingenuo es pensar que la solución es la violencia. Ingenuo es creer que las democracias o el respeto entre naciones brotan de las ruinas, o pensar que practicar un seguidismo ciego y servil es una forma de liderar. Al contrario, yo creo que esta posición no es en absoluto ingenua, es coherente. Ragazzi, va ora in onda la rubrica di poesie. Settima puntata, ci sono sì, settima puntata di rubrica di poesie. E... pensavo la terza, no, settima. La settima, sì, ho nominato il file, settima puntata. Ragazzi, Valentina Blu e Nutrio Mannaro, dopo ve lo diciamo perché non sappiamo esattamente se ci stiamo coi tempi, dopo ci sarà Ulisse contro tutti, ritorna, con la puntata su anni 70, musica dai film. Cazzo, me l'ho studiata prima, ogni volta faccio una figura di merda. Profondo Rosso e Walter Rip Bat. Dai ragazzi, vi salutiamo in anticipo. Aspetta, era arrivato. Vai, di tu. Italian Sound of 70, musiche e suoni dal cinema di genere italiano dei 70, una Anthony Perkins production. Tra l'altro non abbiamo sbagliato. Valentina Blu e Nutrio Mannario. E poi noi vi salutiamo in anticipo, eh. Esagerati. Ragazzi, meditiamo. Ciao a tutti, saluto gli ascoltatori di Radio ZAM. Lasciatevi trasportare da questa nuova onda poetica per ascoltare i miei scritti del giorno. Ho preparato piccoli testi per raccontare il senso dell'incontro, dell'attesa e della ricerca. Benvenuti, buon ascolto, Valentina Cavera. Incontro. Lanterne, lucciole nel sogno dell'oscuro. Me ne sono accorta subito quando ho visto le persone cercarsi. Tempo muto. Pensieri scalzi, in punta di piedi, sui vetri in frantumi, sulle piastrelle bagnate, in silenzio, in silenzio. Cercarsi. Non compare che il silenzio ripetitivo, crateri lunari, depressioni, circolari ferite, meteorite, vuote di parole nella sabbia, deserti sovrapposti, colpi di sole. Una pozzanghera non è un miraggio, calore di passi sepolti sulla riva, perdere il senso dello spazio, viaggio verso te, perdutamente, fobica follia dell'esistere, travolgente. Ciao, una buona serata dal Nutrio Mannaro a tutti gli ascoltatori di Radio ZAM. In questi tempi bui, dove bombe e petrolio scorrono infiammati per le strade di Teheran, speriamo che 5 minuti di poesia possano almeno distogliervi da questi brutti pensieri. Ciao a tutti, anche da Valentina Blu. Nuovi eretici e nuovi santi, per una nuova era, figure altalenanti in un mondo malato, come un cuore miocardico. Plutocrazia, cleptocrazia, pippocrazia, egomania. Napoleone era un signore a fronte di questi demoni, esportatori di bombe e furberia, alla faccia di noi altri 8 miliardi di stupidi. ci si abitua a tutto, al disagio mentale, alla routine alienante, a farsi piacere anche i manichini zombie delle pubblicità, con marmellata di cervello sul biscotto. Ci si abitua a tutto, anche a pisciare in due sacche di plastica e alle parole dei dottori scritte in geroglifici. Ci si abitua a tutto, ai bambini dilaniati dalle bombe, ai bambini pallidi che si aggirano per le strade grigie, alla nostra depressione cronica. Ci si abitua a tutto, tranne a quell'ombra oscura dietro le palpebre che non possiamo scacciare.